America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, il giorno dopo la disfatta democratica, conferenze stampa, incontri, dichiarazioni, a partire dall'uomo simbolo di questa vittoria repubblicana di cui vi ho parlato ieri, a partire da Mitch McConnell, che sarà il nuovo capo della maggioranza al Senato. Sentiamolo. The president and his team could do what they wanted to, and they did, for example, the $1 trillion stimulus, Obamacare, Dodd-Frank, which I describe as Obamacare for banks. Ecco, Mitch McConnell così cerca di aprire Obama, dice in fondo noi dobbiamo parlare, dobbiamo negoziare, però come dire, non si risparmia una battuta, e la battuta è che una delle cose che andrà rimessa a posto è la riforma bancaria. Perché, dice, come la health care, la riforma sanitaria, è stata un disastro, la riforma bancaria non è che un Obamacare per le banche, quindi è come una riforma sanitaria, quindi un fallimento per le banche. Chi è questo signore, Mitch McConnell, che apre ma non si risparmia la battuta? È un 72enne, è un centrista di Louisville, nel Kentucky, nel heartland del paese, nel cuore degli Stati Uniti, e rispetto a Obama, rispetto all'immagine giovanile di Obama, rappresenta il volto stesso della sicurezza, dell'esperienza, e anche, devo dire, grazie a questa sua componente centrista, simboleggia la virata al centro, dalla destra, dal Tea Party, che aveva creato non pochi problemi con il suo estremismo al Partito Repubblicano. Ecco, questa virata del partito verso il centro. As I've said repeatedly here, divided government is not the reason to do nothing. In fact, divided government frequently has been pretty productive. And I think the vast majority of my members would rather make progress on things that they think the country needs to be dealt with. Di nuovo McConnell qui apre, come ho detto più volte, il governo diviso non è una ragione per non fare niente. Infatti in passato in casi simili abbiamo avuto esempi di grande produttività. Devo mettere il Senato al lavoro, credo che la maggioranza dei repubblicani in congresso preferisca fare dei progressi su questioni importanti per il paese piuttosto che no. Ecco, un'apertura, dimentichiamo il passato, cerchiamo di lavorare, lo si dice sempre una volta che un'elezione è finita, lo ha detto anche Barack Obama, naturalmente si è congratulato con i repubblicani per la loro vittoria, però quello che è successo secondo me durante queste elezioni del 4 novembre è qualche cosa di più. C'è un po' un film già visto, un Back to the Future, c'è molto Ronald Reagan, c'è molto umore pro-business, antiregole, e un risultato che punisce duramente l'interventismo di Obama, la creazione di una nuova burocrazia, le promesse senza risultati, con un messaggio di fondo che vale per molte democrazie industriali, inclusa naturalmente la nostra, e cioè che una ripresa economica senza trickle down, senza ridistribuzione verso il basso, non basta a superare il malessere che pervade oggi la classe media, un po' dappertutto nel mondo, soprattutto fra le nostre democrazie industriali. C'è un'altra cosa che ha detto Mitch McConnell. Ha detto, a un certo punto, dice, siamo, che tra l'altro una frase molto simile a quella che ha usato anche John Boehner, noi raccogliamo con grande umiltà questa grande responsabilità che ci ha dato il popolo americano. Ecco, chissà che invece di umiltà non volesse usare paura, perché qui c'è un rischio, e cioè il rischio che a una promessa se ne sostituisca un'altra, perché le risposte non saranno facili. Alla fine la piattaforma repubblicana non è una piattaforma innovativa, creativa, non ci sono valori nuovi, lo ricordavamo già la settimana scorsa. La differenza con gli anni di Reagan è che i repubblicani allora avevano un grande progetto rivoluzionario, oggi non ce l'hanno. E cosa faranno? Si accontenteranno dell'approvazione dell'oleodotto Keystone, che porterà il petrolio dal Canada al Golfo del Messico. Magari otterranno, cosa che chiedono, una variazione nel numero delle ore da 30 a 40 per gli obblighi sanitari delle aziende secondo la riforma di Obama. Ma non vediamo davvero una grande rivoluzione. È più un movimento tattico, un movimento verso il centro da parte dei repubblicani per posizionarsi per il 2016, per riconquistare la Casa Bianca, e c'è invece un posizionamento difensivo da parte dei democratici. Avete vinto, andate avanti, vediamo che cosa sapete fare. E l'elettorato, come abbiamo visto, è volubile, punisce chi non porta risultati, e se dei risultati non ci saranno, beh, a quel punto i democratici si rafforzeranno. Ma sentiamo Obama. Traditionally, both parties have been for creating jobs, rebuilding our infrastructure, our roads, bridges, ports, waterways. I think we can hone in on a way to pay for it through tax reform that closes loopholes and makes it more attractive for companies to create jobs here in the United States. Ecco, Barack Obama, entrambi i partiti dice sono a favore della creazione di posti di lavoro, cerchiamo dei punti comuni, per esempio per raggiungere quell'obiettivo, facciamo una riforma fiscale che elimini troppe deduzioni, che rilanci la creazione di lavoro da parte delle imprese negli Stati Uniti e lavoriamo insieme. Di nuovo una retorica che abbiamo ascoltato, qualche cosa dovrà succedere. Obama, per esempio, partirà per l'Asia questo weekend, la settimana scorsa si dedicherà all'apertura dei mercati commerciali tra Asia e Stati Uniti e poi cercherà di fare lo stesso sul mercato transatlantico. Su questo i repubblicani possono seguirlo magari più dei suoi stessi compagni di partito. La riforma bancaria andrà rivista perché ha ottenuto l'obiettivo opposto di quello che voleva raggiungere, e cioè è difficilissimo che le persone, le aziende ottengano dei prestiti, perché tutto è complicatissimo, e però le banche possono continuare a speculare. Ecco, questo è sicuramente un aspetto che andrà corretto e forse su questo si troverà un'intesa. Ma al di là di riforme possibili, di punti d'incontro, qui è partita la corsa per la Casa Bianca del 2016. Comunque sia, al di là delle tattiche, entrambi i partiti sono ancora alla ricerca di un modello economico di leadership che risvegli l'America e questo suo spirito di frontiera di cui vi parlo sempre, di cui vi parlo ogni giorno, e che cancelli una volta per tutte il pessimismo da un paese che per sua natura è ottimista. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Archiviato il voto di martedì, si pensa al futuro. Domani, venerdì, ci sarà un incontro di Barack Obama con la leadership repubblicana per cercare di trovare un'agenda comune. Poi Obama partirà per l'Asia, ma visto che l'elezione è finita e che questo martedì è passato, ho pensato di proporre The Lynyrd Skynyrd, Tuesday's Gone. Train roll on down the line. Please take me far. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!